Ieri sera avete visto un programma Rai e non pagate il canone? Siete evasori fiscali. L'abbonamento alla TV pubblica, infatti, non è affatto un abbonamento, è una tassa e come tale va pagata. Eppure metà della popolazione italiana non la paga affatto. Stiamo parlando del 41% delle famiglie, con vette dell'87% in regioni come Campania, Calabria e Sicilia. È in assoluto la tassa più evasa e anche più odiata, secondo uno studio realizzato per conto dell'Associazione Contribuenti Italiani. Ma la colpa non è solo dei comuni cittadini, perché il canone dovrebbero pagarlo anche le aziende e invece si scopre che il 96% delle imprese evade regolarmente, praticamente tutte le imprese, per un valore tra 740 milioni e 1 miliardo di euro l'anno evasi. Interessante il fatto che il 31% degli evasori privati cittadini e oltre l'80% delle imprese non pagano perché sanno che non saranno scoperti. Tutto questo nonostante il canone Rai non sia il più costoso in Europa, dove il record appartiene all'Islanda con 346 euro di tassa, seguita dalla Svezia, Finlandia, Germania, dove supera i 200 euro, e dall'Inghilterra con la BBC che costa ai cittadini inglesi 176 euro l'anno. In Spagna, Portogallo, Olanda e Ungheria, invece, non si paga per vedere la TV pubblica. Intanto la RAI, anche se a dirla tutta l'evasione fiscale non è l'unica né la principale causa, ha l'acqua alla gola. Stando all'ultimo bilancio è in rosso per 150 milioni di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.